sono i treni in stazione, i campi di girasole, i cartelloni delle pubblicità. Dormono Roma e Milano, se quest'ora un po' strano, sembrano due paesi e non due città. Dormono i gatti sui tetti, i mostri sotto i letti e le favole lasciate a metà. Che indipendentemente a che succede alla gente, domani il sole sorgerà. Dormono tutti qui, noi siamo gli unici che ci teniamo svegli solo pensandoci. Oh oh, dormono tutti, ma per me sei l'unica che mi fa vivere tra sogno e verità. Adesso spengo la luce, cercherò un po' di pace nel silenzio di questa città, che indipendentemente a che succede alla gente, domani il sole sorgerà.